Israele si stabilì a Sittim e il popolo cominciò a trescare con le figlie di Moab. Esse chiamavano il popolo Rava i loro dei. Israele si attaccò a Baal Peor e la collera del Signore divampò contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo ed esponili appesi per il Signore contro il sole. La collera del Signore si ritirerà da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ognuno uccida i propri uomini che si sono attaccati a Baal Peor. Ed ecco venire uno dei figli di Israele e presentare ai propri fratelli la Madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele che stavano piangendo all'ingresso della tenda del convegno. Finees, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, lo vide e si alzò dal mezzo della comunità e prese nella sua mano una lancia. Seguì l'israelita nell'alcova e trafisse ambedue, l'israelita e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. I morti per il flagello furono 24.000. Il Signore disse a Mosè: Pinchas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha fatto ritirare la mia ira dai figli di Israele, perché è stato animato della stessa mia gelosia in mezzo a loro, e non ho sterminato i figli di Israele nella mia gelosia. Perciò di: ecco, io gli do la mia alleanza di pace. Per lui e il suo seme dopo di lui sarà un'alleanza di sacerdozio perenne, perché ha avuto zelo per il suo Dio e ha espiato per i figli di Israele. Il nome dell'israelita colpito e ucciso con la Madianita era Zimri, figlio di Salu, principe di una casa paterna di Simeone. Il nome della donna madianita colpita era Cozbi, figlia di Sur, capo di clan di un casato in Madian. Il Signore ordinò a Mosè: assali i madianiti e colpiscili, perché sono stati loro ad assalirvi con i loro artifici, orditi contro di voi, per l'affare di Peor e l'affare di Cozbi, figlia di un capo di Madian, loro sorella, colpita nel giorno del flagello, per l'affare di Peor.